Per le strade di Gerusalemme araba la gente si affretta a comprare per timore che arrivi la notizia e i negozi chiudano in tutta fretta per osservare almeno 3 giorni di lutto. La gente si affretta anche a prendere gli autobus che vanno fuori dalla città verso i territori occupati per paura che si chiudano i checkpoint e non sia più possibile tornare a casa nei villaggi della cintura attorno a Gerusalemme. I palestinesi anche stamattina erano dunque appesi a una notizia che attendono da quasi 2 settimane e che da quasi 2 settimane non arriva. Arafat non tornerà vivo alla mucata di Ramallah, dove è rimasto rinchiuso negli ultimi 3 anni, ma la sua morte, allo stesso tempo, è stata troppe volte annunciata. La cosa certa ora sono i luoghi del funerale e della sepoltura, dopo che martedì è stata sciolta la riserva palestinese. Dopo la ridda di illazioni che avevano messo sino all'ultimo minuto in pole position Gaza, la cittadina di Ramallah, a 15 chilometri di distanza da Gerusalemme, è stata scelta dai palestinesi, o almeno dai dirigenti che stanno gestendo in questi giorni il potere, per diventare allo stesso tempo tomba e mausoleo sbrecciato per un uomo, Arafat, che della sua carriera pubblica aveva fatto tutta la sua vita e gli israeliani hanno ufficialmente acconsentito. I funerali invece si svolgeranno al Cairo, perché tutto è più semplice nella capitale egiziana, soprattutto per i dignitari stranieri che arriveranno a rendere l'ultimo omaggio ad Abu Ammar. Ramallah, insomma, ha avuto partita vinta su Gaza. Gaza non era solo un territorio difficilissimo per ospitare i dignitari internazionali, ma sarebbe stato, dal punto di vista simbolico, un gran regalo a Hamas più che a Fatah. Gaza è e resta la Hamas Land, come dice qualche esperto di cose palestinesi, e la tomba del Reis sarebbe servita a consolidare il suo potere attraverso un fortissimo simbolo nazionalistico. Ramallah così diventa una scelta di conservazione, di tutela della memoria di Arafat da parte della vecchia guardia che lì ha concentrato gli organismi usciti dalla pace di Oslo. Ramallah diventa anche una scelta di moderazione, comoda per molti dei protagonisti di questo conflitto. E soprattutto dovrebbe star bene agli israeliani per sostenere Abu Mazen e Abu Ala, con cui una riapertura del dialogo è considerata finalmente possibile. Con un'avvertenza però, che sia Ramallah sia la diarchia che guiderà i palestinesi sono considerati temporanei. La sepoltura di Arafat, perché si attende che possa essere sepolto un giorno, chissà, sulla spianata delle moschee a Gerusalemme. La diarchia perché fra 2 mesi si dovrebbero svolgere le elezioni presidenziali e forse anche politiche. Sarà da allora che comincerà veramente la lotta per il nuovo potere in Palestina. Paola Caridi per Lettera 22 da Gerusalemme.